Radioattiva, una striscia quotidiana di informazione e dibattito tra cura e cultura, salute e benessere, diritti e movimenti. Radioattiva, uno spazio per la critica pratica delle istituzioni, curato dal Centro di Documentazione Oltre il Giardino. E bentornate, bentornati sulle frequenze di Radio Fragola 104.5, 104.8 e in streaming su radiofragola.com. Questo è lo spazio di Radioattiva. Radioattiva è una striscia che pian pianino prende spazio su Radio Fragola con l'intenzione di raccontare il lavoro del Centro di Documentazione Oltre il Giardino e capire come rendere sempre viva la memoria di una pratica che negli ultimi 50 anni ha cercato di trasformare la salute, la città di Trieste, e in qualche modo immaginare insieme al resto del mondo altri modi, altre forme della cura. E allora per discutere, per parlare di cosa significa pensare la cura, agire la cura di ciò che siamo, la cura di ciò che vogliamo, oggi abbiamo un'invitata che è stata qui con noi nelle ultime due settimane, prima al Lunatico Festival, poi partecipando anche nell'Accademia della Follia, Anna Mina da Berlino, da Madrid, attivista e artista. Ciao Anna. Ciao, buongiorno. Buongiorno e benvenuta. Siamo qui con Anna proprio per cercare di parlare di memoria. E allora volevamo partire da un documento, quello che ci stiamo cercando di fare è sempre raccontare dei documenti che troviamo nell'archivio, nel nostro lavoro di documentazione, e raccontarvi dei documenti e usare questi documenti come inneschi per poter aprire delle riflessioni, ma soprattutto delle alleanze, delle complicità, delle voglie comuni di agire. E il documento è tratto da una fanzine del 1986, scritta appena dopo la catastrofe di Chernobyl. Il titolo è Ecomacchine e l'autore è sconosciuto. Marco Cavallo era una macchina teatrale e macchina fantastica. Macchina per uscire dal manicomio, con lui i matti sono scappati fuori. Qualche anno dopo Ugo Guarino ha costruito i testimoni, macchina icastica, fatta con i resti lignei dei vecchi mobili del manicomio. Macchina ferma, macchina che dice, ricorda, annota. Ha fatto qui un'altra macchina, era il monumento al non compianto generale Bava Beccaris, macchina sarcastica. La 180 è una macchina problematica. Ne discute il mondo e l'abbiamo fatta qui. I centri di salute mentale sono macchine di scambio, di cura, macinano la malattia che entra. Pretendono che ne escano uomini, donne, gruppi, diritti, macchine elastiche e plastiche. Abbiamo anche la Califfo, macchina pleonastica. I fuochi sono un riabbraccio alla natura, ma non c'è più natura senza macchina. Macchine per la natura, le ecomacchine. Siamo tutti macchine. Un ambiente macchina per le macchine che siamo. Delicati noi, delicato l'ambiente, se no le macchine si rompono. Schizzo macchine. Anche in Ucraina fanno i fuochi, ma anche i raggi non ecologici. Futuristi non vogliamo più vivere senza macchine, ma vogliamo sceglierle. Le nostre macchine dolci, sexy, macchine di sole, macchine di fuochi, macchine aerodinamiche, macchine psicodinamiche, macchine corpodinamiche, macchine auto ed eterodinamiche. Ecodinamo, l'eco dei bambini. Eccole qui, fantastiche, icastiche, problematiche, elastiche, plastiche, le macchine dell'eco. Vino a demostrar que es posible rebelarse y que vale la pena. con muchos errores, muchos defectos, con subidas y bajadas como cualquier ser humano. La única diferencia es que tenemos un pasamontañas, un arma y estamos dispuestos a morirnos por lo que creemos. Es bueno para este ejército proponerse como su meta más alta desaparecer. Desaparecer. También y sobre todo de que cualquiera pudiera ser malo. Cualquiera, aunque no tuviera un arma, aunque no estuviera en las montañas del sureste, o aunque no escribiera como Marcos, podía ser Marcos. E questo era un pezzo di Hechos contra el Decoro del 1997, un'altra eco, l'eco della giungla, della selva zapatista, della selva del Chiapas, e in qualche modo con Anna, che sta lavorando da tanti anni sugli archivi di uno spazio di produzione collettiva di altri mondi, i vari laboratori che hanno popolato la città di Madrid, centri sociali, spazi di incontro, di vita in comune. Parlavamo di quanto questo testo del 1986 sia appunto un eco di tante altre parole, ed è interessante vedere come questi eco funzionano sia nel tempo sia nello spazio. Parole che si muovono tra un esercito che ha come primo obiettivo quello di scomparire, diceva il subcomandante Marcos in questo tratto di in questo remix fatto da Hechos contra el Decoro. E proprio ieri sera, in un dibattito che avevamo qui al Lunatico Festival, Franco Rotelli diceva: noi volevamo dimenticare il manicomio e forse ci siamo sbagliati. Ecco, questo rapporto con la memoria, con gli eco, nel tuo lavoro quotidiano di attivazione di documenti, di ricerca di un modo per cui i documenti di un passato neanche troppo lontano, o di luoghi appunto altri, e quindi però non per questo non vicini a noi, cosa vuol dire pensare l'eco come modo per rapportarsi con la memoria e farla diventare parte del presente? Sì, infatti io pensavo, non pensavo, sentivo quando hai letto questo testo, e anche quando ho sentito questa canzone, che mi hanno trasportato anche a un passato cercano, ma anche mi collegano con questo presente di ricerca, no? Quindi magari l'eco ha prima di tutto da vedere con un'emozionalità, no? Con un collegamento, come ti trasporta a un'esperienza che ti fa anche riflettere, sentire quello che stiamo facendo oggi, no? Quindi da questa prospettiva che abbiamo stato parlando questi giorni sul lavoro di appunto memoria, archivio, così direi che l'eco di un'esperienza sarebbe quelle tracce che si trovano nelle esperienze presenti, no? Quello potrebbe essere un eco. Quindi è un concepire di memoria che non ha tanto che vedere con, non ha quasi niente da vedere con solo col ricordo o con neanche la nostalgia di un'esperienza passata, ma invece con una pratica viva, di un sapere che si accumula, ma anche che si deve riprodurre ancora una volta, sempre, no? Basate anche sulle pratiche che sono state prima, quelle fallite o quelle no, quello non importa, no? E la trasmissione di questa emozionalità nelle esperienze presenti sono appunto l'eco delle esperienze passate, no? Una delle questioni che per esempio sta emergendo spesso nelle assemblee che in queste ultime settimane si stanno susseguendo qua a Trieste, nel momento in cui c'è una situazione difficile perché c'è un attacco alla cultura basagliana, al modo di organizzare i servizi che da 50 anni qua si è sperimentato, è un problema nostro interno, ed è il fatto che spesso le voci di chi è stato protagonista di una storia così importante rischiano di soverchiare le voci più titubanti di chi questa vita e questa esperienza la sta sperimentando soltanto adesso. Come si fa, secondo come hai provato tu nel tuo lavoro, a fare a rendere questi eco delle, appunto, queste tracce dolci che riescono a stare poi da pari a pari col balbettare che invece ci contraddistingue in un periodo di grande confusione, di grande difficoltà, di grande violenza, dove la trasformazione sociale troppo spesso sembra essere una trasformazione a ritroso invece che in avanti. Sì, infatti in questo senso il ruolo della memoria è quello di costruire, parlavamo l'altro giorno, anche una genealogia delle pratiche, no? E una genealogia delle pratiche non è fissare una storia, una narrativa fissa dal passato, ma tentare di collegare quelle pratiche del passato con quelli che, diciamo, di arricchire le pratiche presenti, no? Quindi è anche un lavoro che non finisce mai, no? Di riproduzione dei saperi collettivi che si creano e si riproducono in ogni pratica, diciamo, no? Infatti questo lavoro di archivio sulla pratica del centro sociale laboratorio, che è un centro sociale che è esistito alla città di Madrid tra l'anno 97 e l'anno 2003, quindi 20 anni fa ormai, non una lunghissima esperienza, 6 anni, però che invece è stato un momento significativo nella storia dei movimenti sociali. Quando abbiamo cominciato a fare questo lavoro è partito appunto per una riflessione sul presente. C'era un bisogno di costruire questa genealogia, perché eravamo in questo momento del movimento municipalista e appunto c'era questo cambiamento che dicevi tu, generazionale anche, di quelli che avevano più o meno cominciato a fare politica tra il 15M, questo movimento di occupazione del 2011. Di piazza, ecco, 10 anni fa, e che sono saltati immediatamente nella politica di rappresentazione, no? Quindi abbiamo molto rapidamente visto questa tensione, diciamo, tra le pratiche, la cultura della pratica di auto-organizzazione, della cultura autonoma, e questa politica istituzionale, che è sempre un rapporto conflittivo che dobbiamo comunque portare avanti. Quindi fare questo lavoro di memoria ha da vedere appunto con riprendere quella cultura dell'auto-organizzazione, della critica del potere, anche se stai lottando nelle istituzioni, no? Ma è anche, come dire, è un lavoro, come dicevo prima, che c'entra molto con l'emozionalità. Per me il lavoro di archivio è stato innanzitutto un lavoro di cura, di ricostruire i vincoli con la nostra memoria, con le nostre pratiche, perché a volte abbandoniamo anche la memoria. E quindi è stato molto interessante cominciare a fare le interviste con le compagne, i compagni, perché sono loro che mi hanno detto: era da un bel tempo che non pensavo e adesso mi rendo conto come è importante, come sono state importanti certe pratiche nella nostra soggettività politica. Passiamo alla seconda parte della parola, no? Ecomacchine. Ecomacchine, macchine ecologiche, certo, macchine che appunto pensano ad una possibilità di riprodursi, ma anche eco della memoria come traccia nel presente, bene lo dicevate prima. E però macchine che fanno, che amplificano, che fanno dinamite del mondo, che scoppiano, che esplodono, che rompono. L'altro giorno, qua al Lunatico, tu davi una definizione del centro sociale laboratorio, ed era la definizione di una macchina, potrebbe stare benissimo in questo testo dell'86, quasi come una postilla di una nuova macchina. Che macchina era un centro sociale? Che macchina è, anzi, un centro sociale? Sì, infatti, io potremmo dire una macchina della moltitudine, potremmo dire una macchina di guerra, se vogliamo usare le parole. Però diciamo, una macchina di immaginazione, di pratica politica, un centro sociale, no? Tornando a questo, che si collego con l'idea dell'eco, l'eco del laboratorio, cioè, ho detto che il laboratorio come centro sociale è finito nel 2003 perché è stato sgomberato, non riuscivamo a trovare un altro posto, anche perché la città stava cambiando in quel momento, però anche se l'esperienza stessa di centro sociale è finita là, di quel centro sociale, perché poi sono arrivati altri, con appunto l'eco del laboratorio, invece quelle tracce che dicevo dell'eco di un'esperienza passata si possono anche oggi trovare. L'eco del laboratorio si trova in molte esperienze nella città di Madrid, in esperienze di cooperative, nelle esperienze di auto-organizzazione appunto dei nuovi centri sociali, ma anche nelle esperienze di questa politica istituzionale, perché ci sono un sacco di compagni e compagne che hanno fatto questo percorso anche, hanno tentato di portare appunto questa cultura di questionamento della forma classica partito alle nuove pratiche istituzionali, municipaliste, così. E quindi fare archivio è costruire uno strumento, no? Un strumento politico per il presente, per arricchire le domande su quelle pratiche presenti. E per quello, secondo me, un archivio è anche una macchina. Quindi quello che succede con l'archivio laboratorio è che puoi leggere sia il centro sociale come una macchina di produzione sociale, ma anche l'archivio riproduce questa logica di macchina. Quindi per me la domanda è, secondo me le macchine si attivano quando si collegano con altre macchine, no? È qualcosa che sentivo anche in questo testo che hai letto all'inizio, no? Quindi la domanda sarebbe come si attiva l'archivio, perché un archivio è quello che parlavamo l'altro giovedì, la settimana scorsa, serve solo quando si attiva, se no, cioè, non esiste una scatola piena di documenti che nessuno può leggere, non serve a tanto, no? Un archivio esiste quando si attiva, quindi quando si connetta un archivio come macchina con altre macchine. Quali sarebbero quelle macchine? Quelle macchine possono essere, siano le pratiche politiche, siano altri archivi o qualsiasi persona, pratica, esperienza che si collega con quel eco, con quella memoria, con quei documenti che ci parlano al presente, diciamo, no? Mi viene in mente un'ultima domanda, perché poi in realtà sarebbe una conversazione che potrebbe andare avanti a lungo, però uno degli obiettivi o dei punti forti che stiamo trovando nel nostro lavoro qua a Trieste è quello di ritrovare le tracce di una identità. E quindi l'archivio diventa una macchina dell'eco proprio nel tentativo di trovare queste tracce di un'identità, questo luogo in cui siamo, capire come si è accumulato, come si è prodotto socialmente, quotidianamente. Eppure l'identità, ne parlavamo in questi giorni, può essere spesso un pericolo, una chiusura, una riduzione ad uno della moltitudine, quindi stravolgere il senso macchinico che aveva il centro sociale o che aveva la storia, il lavoro qua a Trieste, e trasformarlo in qualche modo in qualcosa di fissato. Non so bene quale sia la domanda, una riflessione su questa cosa qua, pensando come per esempio in queste settimane una delle macchine, che era stata una delle macchine più importanti sicuramente del movimento basagliano, ricordiamo che quando Franco Basaglia arriva qui nel 1971 con un'equipe di giovani medici che non avevano mai attraversato l'istituzione e quindi non avevano una idea preconcetta di come lavorare dentro le istituzioni, si trovano nel manicomio e la prima invenzione istituzionale, la prima macchina che si inventa è l'assemblea. Un'assemblea ogni mattina per discutere tra chi lavora e un'assemblea alle 5 del pomeriggio con tutti i degenti e persone volontari, lavoratori, per discutere di cosa sta cambiando, di cosa sta succedendo. E si discute, e sembrano le assemblee che tu raccontavi del labo, si discute del cibo, si discute della carta igienica, si discute delle trasformazioni, dei ruoli di potere, un'assemblea come macchina permanente di produzione e riproduzione sociale. Allora questo rapporto tra identità e chiusura credo che sia un tema cruciale per pensare come gli archivi non chiudano la storia, ma aprano appunto il presente. Sì, infatti questa è una domanda che io mi sono fatta dall'inizio. Per quello mi sono curata molto di non costruire le narrative sulla storia del laboratorio. Cioè non era il mio ruolo, anche perché non si può. Siccome il laboratorio è un'esperienza della molteplicità, non puoi chiudere l'istoria di una pratica di molteplicità in un'unica narrativa. Quindi fare l'archivio di un'esperienza così ricca significa fare un strumento che si può leggere e rileggere e ricostruire dipendendo di quali sono le domande del presente, no? Anche perché chiudere un'identità nel passato di un'esperienza che appunto metteva nel centro della sua politica il rompere questa identità forte della sinistra, dei movimenti alternativi, dell'autonomia, se vuoi, sarebbe tipo tradire l'esperienza stessa, no? Quindi diciamo che l'archivio è l'archivio appunto di quel processo incessante di costruzione di soggettività politica, che in questo caso è sempre collettiva, perché è un'esperienza di soggettività politica collettiva, di un'esperienza che appunto tenta sempre di essere espansiva, cioè non di chiudersi su una identità di quelli che pensano lo stesso, gli piacciono le stesse, non so, musica, estetica, ma invece un'esperienza che connetta con un territorio complesso che in questo caso era il quartiere nel centro di una città che stava appunto trasformandosi sotto il neoliberalismo alla fine degli anni 90, no? Quindi sì, questa idea di l'archivio come un strumento di apertura sempre, di domanda, diciamo, no? Su un'esperienza che si basa. E le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori possono trovare questi materiali online? Sì. E il sito web si chiama Hacer Laboratorio. hacerlaboratorio.net. E abbiamo anche fatto un documentario che non è ancora online, però ci sarà. E che speriamo di presentare presto anche qui a Trieste. Dobbiamo fare i sottotitoli in italiano. E poi, secondo me, questo archivio si riproduce ogni volta che ne parliamo sull'archivio, che facciamo dei incontri, che facciamo delle discussioni, che appunto c'è l'strumento web, diciamo, che raccoglie i materiali, ma anche il documentario sono delle materie prime per lanciare la discussione, che alla fine, secondo me, è la parte più interessante di tutte. Volevo aggiungere solo una cosa, se ho tempo, su questa idea d'assemblea, che è molto interessante anche perché è stata molto discutita anche allora, però è una discussione che non finisce mai, no? Dove si trova l'assemblea, chi partecipa dell'assemblea, cosa significa fare assemblea. E c'è un autore argentino che ha fatto una definizione, secondo me, abbastanza intelligente di cosa sia un'assemblea. Lui diceva che l'assemblea è il posto dove possiamo pensare insieme senza aver bisogno di pensare la stessa cosa. Grazie Anna. Una bellissima definizione di cos'è un'assemblea, e speriamo di essere fedeli a questa definizione anche nel nostro quotidiano. Ti salutiamo e lasciamo i nostri ascoltatori con Don't Swallow Bleach dei The Tiger Lilies, e poi ci salutiamo anche con voi dopo lo stacco musicale. Grazie a voi. Toilet cleaner. COVID-19 is getting meaner. Kills a virus, sends it to hell. But it will kill you as well. Don't swallow bleach, you I beseech. Don't swallow bleach. Send you straight down to hell. You know that bleach won't go down well. Whose crazy idea was that? They must be full of crap. don't be a lump. Someone on you bullshit's dump. Don't swallow bleach, you I beseech. Don't swallow bleach. Don't swallow bleach. Don't swallow bleach. I beseech. Don't swallow bleach. Don't swallow bleach. Invece il presidente Trump ci insegnava che per guarirci dal Covid bastava bere un po' di candeggina. Ringraziamo i Tiger Lilies per ricordarci di non bere la candeggina. Una canzone che appunto chiude gli echi del passato con gli echi del presente, un presente pieno di tracce, pieno di viralmente di tracce, di un modo di vivere che sta trasformando il nostro modo di capire il mondo, e quindi la memoria, le pratiche ci servono per immaginare. Ringraziamo tutte e tutti per averci ascoltato in questa puntata di Radioattiva. Noi torneremo con Adam Zuliani alla regia martedì prossimo con un po' di documenti, con un documento che vorremmo produrre, trasformare in parola audiomatica, come ci piace di dire, per voi, parlarne insieme a chi magari vorrà scriverci qualche cosa. Per ora vi salutiamo e vi auguriamo un buon fine settimana. Ciao a tutte. Radioattiva, una striscia quotidiana di informazione e dibattito tra cura e cultura, salute e benessere, diritti e movimenti. Radioattiva, uno spazio per la critica pratica delle istituzioni, curato dal Centro di Documentazione Oltre il Giardino.